GR Sport. Manchester United e Chelsea si giocheranno la finale di Champions League 2008 il 21 maggio a Mosca. La seconda semifinale fra Chelsea e Liverpool è finita 3-2 supplementari. All'andata le due squadre avevano pareggiato 1-1. Sentiamo. Al termine di una gara mozzafiato, tutta sotto la pioggia, in un clima tipicamente britannico, i Blues conquistano la prima finale della loro storia, battendo gli storici avversari del Liverpool che in passato li avevano battuti 2 volte su 2. È Didier Drogba a portare in vantaggio la squadra di Grant nel primo tempo, raccogliendo una respinta di Reina su tiro di Kalou. I Reds di Benitez non sono la solita armata europea e si vede, ma nella ripresa riescono comunque a trovare il pareggio con El Niño Torres. Un rigore di Lampard fischiato dall'ottima terna arbitrale italiana capitanata da Rosetti riporta in vantaggio i londinesi. Con Shevchenko in panchina, che ha nella testa già il Milan per la prossima stagione, è ancora al solito Drogba a chiudere il discorso qualificazione prima che Babbel restituisca emozione al finale di partita col definitivo gol del 3-2. Anche in Champions League si ripete il testa a testa della Premier con Manchester e Chelsea, che in pochi giorni si giocheranno il primato nazionale e internazionale, a testimonianza del fatto che la Champions quest'anno è roba loro. Cristiano Rubio, GR24, sono le 24 ore. E stasera al Franchi la Fiorentina incontra i Rangers Glasgow nel ritorno della semifinale di Coppa UEFA. L'andata era finita 0-0 e questo dà un lieve vantaggio alla formazione viola. Secondo l'allenatore Cesare Prandelli, un fattore vincente potrebbe essere la tifoseria fiorentina. Io sono straconvinto che la partita la vinceranno i nostri tifosi, perché abbiamo sempre parlato in queste settimane del tifo inglese, del tifo scozzese, olandese, ma tutta l'Europa vedrà cosa Firenze è capace di fare. E noi siamo convinti che con il nostro pubblico possiamo veramente andare in finale. Per Adrian Mutu non bisogna lasciarsi scappare l'opportunità di raggiungere una finale europea. Siamo un po' stanchi, però l'opportunità di andare a una finale europea ci entusiasma molto e ci dà molto morale. E quindi siamo preparati, non vediamo l'ora di giocare anche per la bellezza della semifinale, per la bellezza di giocare in Coppa UEFA. E poi vediamo, calcio può succedere di tutto. Importante dare tutto in campo. Passiamo all'atletica. È cominciato ieri a Losanna, al Tribunale Arbitrale dello Sport, l'esame del caso Pistorius. Le audizioni proseguiranno ancora questa mattina in attesa della decisione finale. Oscar Pistorius, 21 anni, si è rivolto al TAS per avere la possibilità di competere agli Olimpiadi di Pechino insieme ai normodotati, nonostante corra con 2 protesi. E come sempre, il 1° maggio si tiene a Sesto San Giovanni nel Milanese la tradizionale marcia internazionale giunta alla 51esima edizione. Ci saranno nomi illustri per gli appassionati della marcia come Alessandro Gandellini, il campione olimpico Ivano Brugnetti e il campione del mondo dell'Ecuador Jefferson Perez. Gli atleti si sfideranno lungo un percorso stradale da compiere 9 volte per 20 km complessivi. Chiudiamo con il volley. Inizia stasera la finale del campionato di pallavolo maschile fra Trento e Piacenza. Dario Ricci ha chiesto un parere a Lorenzo Bernardi, grande ex del volley azzurro, nominato giocatore del XX secolo. Chiaro che quest'anno Trento ha dimostrato, rispetto a quasi tutte le squadre, ti dico quasi perché secondo me con Treviso non è un caso, penso che le 3 partite che Trento ha giocato quest'anno le abbia vinte Treviso a discapito di Trento, però penso che tutte le altre squadre le abbiano, non dico dominate, però sicuramente vinte con abbastanza facilità. A questo punto penso che l'unica squadra che può perderlo è Trento, anche se presumo e prevedo, secondo me, che lo vincerà in 3 partite e non così proprio nettamente come è riuscita ad eliminare Modena e Roma. È tutto per questa edizione di GR Sport, ancora un augurio di buona giornata da Paolo Panceri.